Storie di libertà. Questa storia parte dalla fine di una pena, scontata in un carcere italiano nel sud Italia. 10 anni prima, Ciro aveva 19 anni, veniva da una famiglia povera, ma come molti suoi coetanei e coetanee, sognava di vivere una vita nel lusso sfrenato. Una vita finta, fatta di soldi e bugie. Il papà e la mamma di Ciro erano umili lavoratori, entrambi si alzavano presto la mattina per andare a lavorare. Nella famiglia del padre, però, c'era lo zio Giuseppe, un cattivo esempio per il nipote. Era sempre in giro con auto nuove, passava tra i negozi del paese come se fosse una star e spesso si trovava nei locali con ragazzi dell'età di Ciro a bere e a godersi la vita. Tutti conoscevano Giuseppe come il boss del clan The Wolf. Il nostro giovane protagonista desiderava essere ricco, perché quello che vedeva sui social, sentiva nelle canzoni e quindi chiese di entrare a far parte del clan. I The Wolf lo accettarono e gli dissero che avrebbe guadagnato molti soldi se avesse cominciato a fare alcuni atti criminali. Da questo momento la vita di Ciro cambiò velocemente. Durante una rapina però venne arrestato. Da lì a poco processato e condannato a 15 anni. Il suo futuro si era infranto in quattro mura di disperazione. Sia il padre sia la madre gli consigliarono di collaborare con la giustizia e avere così uno sconto della pena. Ciro decise di pentirsi e scontò una pena di 10 anni in un altro carcere. La gang dello zio venne arrestata e i suoi crimini scomparirono per sempre. Una volta uscito, decise di creare un'associazione che aveva l'obiettivo di informare le persone riguardo i rischi e i pericoli delle organizzazioni criminali e la chiamò I Coraggiosi. Nel lontano febbraio del 1986, nei pressi di Spaccafoggia, si aggirava la gang fondata da Angelino Falegname, conosciuta come AF, ora sotto il comando di Massimo Sposito. Spaccafoggia era una città povera, il sistema sanitario era in pessime condizioni, i servizi pubblici erano poco sviluppati, le strade senza marciapiedi e sempre sporche, e non c'erano opportunità lavorative. Perciò i cittadini trovavano aiuto dalla gang che li costringeva ai loro ricatti quotidiani. Un giorno due motorini sfrecciavano nel centro di Spaccafoggia. Dopo qualche impennata cominciarono a sparare in aria per affermare il proprio potere sulla città. Uno di questi colpi sparati, purtroppo, finì per colpire un ragazzino di 16 anni, Luigi. Il colpo partì dalla pistola del vicecapo della gang, Vincenzo Parella, di soli 22 anni. La fortuna volle che, non lontano da questo atto criminale, ci fosse una pattuglia della polizia che, sentiti i rumori assordanti degli spari, si fiondò nel luogo e fermò i due motorini. Luigi restò immobilizzato su una sedia a rotelle. La cittadinanza di Spaccafoggia si unì al ragazzo e alla sua famiglia. I quattro ragazzi arrestati furono condannati a 14 anni di carcere perché non confessarono i nomi degli altri uomini appartenenti alla gang AF. Dopo un anno alcuni ragazzi di circa 18 anni si presentarono a casa di Luigi e minacciarono la famiglia chiedendo una somma di denaro elevata per i loro sporchi affari. Luigi e la sua famiglia si sentirono offesi e presi in giro. Rifiutarono di aiutare quei criminali e chiamarono subito la polizia, rischiando la propria vita. Erano certi che non dovevano stringere patti con persone senza scrupolo e senza pietà. La famiglia di Luigi non si fece spaventare dalle minacce e ottennero giustizia. La gang venne catturata. Tutti i membri furono privati degli oggetti pericolosi e personali. Pistole di ogni grandezza, droghe di ogni tipo e rotoli di banconote sporche di sangue. La famiglia di Luigi, con l'aiuto di altri cittadini di Spaccafoggia, decisero di fondare un'associazione per eliminare la camorra e migliorare il paese. Questa storia ci insegna che bisogna sempre lottare per ottenere la libertà. Siamo a Forino, è il 2027, si stanno verificando diversi crimini. Una gang camorristica di nome Ingabbiatorix ruba soldi dalle carte di credito e ricatta le persone. grazie ad una invenzione ideata da un loro scienziato, conosciuto come Dengoblator 27. La camorra ha usato questa invenzione per investire i suoi traffici illeciti e continuare ad arricchire i suoi mercati di droga e armi in molte città. Nella vicina Xilano vive un hacker che nella rete resta anonimo, il quale in diverse piattaforme live sfida queste truffe e gabbie virtuali. Il capo degli ingabbiatori X, Maurice Street, viene a sapere di lui e vuole ingabbiarlo. Dopo qualche settimana i suoi scagnozzi riescono a sapere il suo nome e cognome, Marino Colonnese. Sanno dove abita e che spesso va a Forino per motivi personali. Un giorno il protagonista si trova sulla metropolitana di Forino. Sono le 10 del mattino, improvvisamente tutti scendono alla stessa fermata e salgono due uomini. L'hacker non ci fa caso e prende il suo cellulare. Proprio in quel momento i due lo ingabbiano con una pistola elettrica. Cavi scintillanti lo stringono, ma uno dei cinque cavi non raggiunge Marino e quindi il nostro protagonista riesce a fuggire dalla morsa. Colpisce entrambi gli uomini e gli chiede dove è nascosto lo scienziato, autore di quella insensata invenzione. Gli parlano di un palazzo non lontano da lì. Marino si dirige fuori la metro e raggiunge il luogo. Come un agente segreto sorprende alle spalle lo scienziato, davanti al PC ad ingabbiare povere persone cadute nella sua trappola. Lo scienziato viene costretto a dargli una chiavetta USB per distruggere e disinstallare quel programma criminale dalla rete. La chiavetta USB viene inserita nel PC e in pochi passaggi i piani della camorra vanno in fumo. Quella stessa pennetta viene portata ai poliziotti e ai magistrati. In pochi giorni tutti gli uomini appartenenti al clan vengono catturati, processati e incarcerati per aver commesso reati illeciti molto gravi. L'ultimo messaggio che Marino manda sui social è: se la vita ci pone delle sfide, dobbiamo affrontarle con tutti noi stessi. La paura non deve mai vincere sul coraggio, sulla giustizia e sulla verità. La mafia e la camorra sono organizzazioni criminali che hanno radici profonde in Italia. Queste organizzazioni sono responsabili di una vasta gamma di reati che vanno dal traffico di droga all'estorsione, dal riciclaggio di denaro alla corruzione. Tuttavia, non esistono punti a favore per queste organizzazioni. La loro attività criminale ha causato danni enormi alla società italiana, tra cui la perdita di vite umane, la corruzione delle istituzioni e l'indebolimento dell'economia. Inoltre, queste organizzazioni sono in grado di infilarsi nelle istituzioni e corrompere i funzionari pubblici, rendendo difficile la lotta contro di loro. In sintesi, la mafia e la camorra sono organizzazioni criminali che rappresentano una minaccia per la società italiana. La lotta contro di loro è un compito difficile, ma necessario per garantire la sicurezza e la prosperità del Paese. Questo podcast è stato realizzato dalle ragazze e dai ragazzi della seconda A dell'Istituto Comprensivo Giosuè Carducci di Marighianella per il progetto Onda Pazza, il filo della memoria. Onda Pazza, il filo della memoria. È un progetto che si propone di creare momenti di riflessione e divulgazione sul tema della legalità e della memoria, coinvolgendo 35 scuole di 7 regioni. Onda Pazza, il filo della memoria. Un progetto di Teatro di Eventi, Emilia Romagna, realizzato nell'annualità 2023-2024 in collaborazione con FNAS, Federazione Nazionale delle Arti in Strada, Stalker Teatro e Crab Teatro, Piemonte, Teatro Invito e Pandemonium Teatro, Lombardia, Emiliano Valente, Emanuele Di Giacomo, Valentina Virgili, Lazio, Pro Positivo, Sardegna, Teatri in Gestazione e Baracca dei Buffoni, Campania, Genia Labart, Sicilia, Consulenza Scientifica e Progetto Video a cura di Caracò. Iniziativa realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.